Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. On April 19th, 1995, an anti-government extremist committed the worst act of domestic terrorism the United States had ever seen. In this special program, a stunning account of the Oklahoma City bombing. The inside lunedì scorso è stato fatto un uso particolare, estremo, certamente interessante, anche un po' inquietante, della televisione in America a cura di una stimatissima giornalista televisiva della MSNBC, si chiama Rachel Maddow, che ha colto l'occasione di un doloroso, tragico anniversario per proporne una rilettura a tinte forti, come diciamo, a tinte intense, ma al tempo stesso da osservare, da tenere d'occhio, per ragionare anche, no? Per riflettere sull'uso, appunto, che si può fare della grande condivisione televisiva. L'anniversario in questione era il 15° anniversario del sanguinosissimo attentato, il più sanguinoso che si sia mai tenuto in terra d'America ad opera di mani americane. Oklahoma City, 168 persone uccise, 800 ferite, danni stimati per 652 milioni di dollari per mano di Timothy McVeigh, un estremista, un ex militare tornato in patria e progressivamente isolatosi dal suo ambiente sociale, dalla famiglia, dal contesto nel quale viveva, e poco alla volta spintosi verso, naturalmente, i territori del delirio, sia politico che mentale, le estremizzazioni che superano la decenza e poi anche forse la vergogna, fino a perpetrare un atto di questo genere, che avrebbe tra l'altro causato la morte di tanti bambini, perché in quel gigantesco edificio che il camion imbottito di esplosivo guidato da McVeigh avrebbe letteralmente polverizzato, c'erano anche tanti bambini, c'era un asilo, ma forse quelle scene le ricordate. Vi dicevo, Rachel Maddow ha messo insieme un documento eccezionale, un documentario, un'inchiesta della durata di 2 ore, in cui per la prima volta le voci tornano dai sepolcri, come dice il titolo del servizio che Newsweek ha dedicato alla operazione, ovvero McVeigh in prima persona parla e spiega cosa ha fatto, perché l'ha fatto e soprattutto perché non si è mai pentito. I never had trouble admitting to my involvement in what I did because I feel no shame for it. I feel no shame for it, dice la voce di Timothy McVeigh, non sento nessuna vergogna, nessun dolore per quello che ho fatto, era il segno tangibile, come dire, folle del estremismo antigovernativo. E perché è interessante oltremodo parlarne in questo momento, sia in relazione alla televisione americana, ma anche in relazione alla realtà americana, perché l'estremismo antigovernativo è una delle notizie che appartengono a questo inizio di anni 10 negli Stati Uniti d'America. Pensate che dal 2008 al 2009 i gruppi estremisti antigovernativi, che sono stati, diciamo così, censiti dalle autorità americane, sono passati ad essere da 149 a 512, e 127 di questi meritano a tutti gli effetti la definizione di milizia, ovvero di cittadini armati per difendere i loro diritti in linea di massima da eventuali, a loro giudizio, rotture costituzionali, ovvero dalla perdita del diritto di essere americani per quello che loro interpretano, in linea di massima ad opera per mano dello Stato. And then pulled up to the light, which was red at the time, and lit the main fuse, which was approximately 2 minutes. Anche da un punto di vista tecnologico, tra l'altro, la ricostruzione offerta da MSNBC ad opera di Rachel Maddow è straordinaria, anche per come è fatta, per come si vede, e tra l'altro un giro su internet vi permetterà di goderne già vari lunghi estratti, capirete di che cosa sto parlando e anche l'interesse della realizzazione in questione. È stata utilizzata la computer graphic, partendo sempre dimostrare da elementi reali, da fotografie, da filmati, da ricostruzioni, con il contributo naturalmente di attori, ma con l'utilizzo poi di sembianze fisiche pressoché identiche a quelle dei protagonisti di questo tragico episodio, si vede, si assiste, si entra nella testa di McVie e in prima persona si reinterpreta, si rivive il terribile episodio. Poi naturalmente ci sono molte interessanti, approfondite serie interviste a contorno, a commento dei fatti. Without warning, all of a sudden, you know, you hear this, you know, kaboom. It's just seconds that you just don't know what's happening. Non a caso in tanti si sono chiesti se le persone coinvolte nell'attentato ce l'avrebbero fatta, avrebbero sopportato la visione di questo documento o avrebbero preferito fare qualcosa di ben lontano da tutto ciò. Tra l'altro è impressionante la testimonianza offerta dal dottor Paul Heath, che è uno psicologo che lavora con i veterani e da cui McVie si era presentato pochi giorni prima dell'attentato, probabilmente per fare un sopralluogo, ma ufficialmente per avere un consulto. Alla fine della visione si resta scioccati. Alla fine della visione la giornalista Rachel Maddow attualizza i temi in discussione. Questo era 15 anni fa. Oggi l'America mostra una tendenza di questo genere. Questi i documenti, questa la necessità di ragionarci sopra. Anni 10. Parole. Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare. Questa è una delle scene conclusive di un film che ci ha molto colpito e ci è anche molto, come dire, rimasto addosso tra quelli prodotti dalla cinematografia americana degli anni recenti. Si chiama Into the Wild, è firmato da Sean Penn per la regia, è tratto da un romanzo di Krakauer, un attento osservatore dei margini americani, ma questa volta non in termini psicologici quanto in termini fisici, in termini geografici. La storia di questo ragazzo che un po' alla volta alla ricerca di se stesso si perde però nel grande gorgo americano della natura e ne viene in un certo senso ingoiato, ma forse anche sublimato, con alle spalle di questa notevole storia un grande rispettato, venerato fantasma di cui in questi giorni in America riappare la summa, no? La summa, quei diari che hanno rappresentato la sua vera poetica. Stiamo parlando di Henry David Thoreau, naturalmente stiamo parlando dello spiritualismo americano e stiamo parlando della ripubblicazione dei suoi diari in una edizione scelta e contenuta. I diari di Thoreau occupano migliaia e migliaia di pagine, una edizione integrale è impensabile, o credo ne esista una ad opera della Princeton University ad un costo assolutamente proibitivo. Qual è il fascino di questo scrittore, di questo pensatore, di questo intellettuale tanti anni dopo la sua santificazione che non ebbe in vita, quando venne considerato un modesto discepolo di Emerson, che invece di quegli spiritualisti visualisti era il talento riconosciuto. Prima di tutto, Thoreau un po' alla volta, gli anni 30 in poi, ha attraversato una grande fortuna presso intellettuali di tutti i generi. A lui hanno guardato Tolstoi, Gandhi, Martin Luther King Junior, il suo dettato, no, dell'individualismo democratico e soprattutto della comunione con la natura ha certamente incontrato una fortuna crescente ininterrotta che, pensate, rispunta in un certo senso anche oggi in quei movimenti che vengono un po' sbrigativamente bollati, no, di populismo, ma che evocano, invocano il ritorno a una originalità americana. Di sicuro, se vi è mai capitato o mi auguro vi capiti un viaggio, una esperienza in quel New England di cui Thoreau, no, nei suoi libri più famosi tipo Walden, racconta, descrive con sublime maestria, insomma, il senso, la percezione, l'atmosfera, quella sensazione di essere protagonisti di una avventura particolare al limite della perfezione, proprio per la comunione con la natura, e quindi sono stati salutati con grande interesse, grande rispetto e soprattutto anche con una certa dose di attualizzazione questi diari, journal 1837-1861 di Henry David Thoreau, che rivedono la luce in una America completamente diversa, no? Ma che però in questo senso acquistano un valore proprio come reazione, no? Per reazione l'America che non c'è più e si ricerca, sono pubblicati dalla New York Review Classics, sono 700 pagine, però naturalmente potreste scegliere quelle vostre predilette oppure potrete cercarne, riscoprirne una edizione italiana. La mattina dopo mi svegliai sentendomi magnificamente riposata. Non vedevo l'ora di uscire a godermi la vista spettacolare. Buongiorno. Patience è uscita a comprare delle brioche. Torna subito. Era lì, che occhieggiava, dritto davanti a me. Bene. Era così disinvolto, felice, assonnato. E io non sapevo che fare o che dire. Bene. Sapevo solo una cosa. Prima del caffè era una dose eccessiva. Insomma, era senza mutande il signore che Carrie aveva incontrato in giro per l'appartamento della amica. Questa è Sex and the City, che ormai è un evergreen, è un dato di fatto, un po' perché finita la serie, è cominciata la serie dei film, è uscito il primo e sta uscendo il secondo, tra poco tra l'altro ne parleremo, un po' perché Sex and the City si è incollato all'immaginario condiviso d'Occidente, se mi passate questi paroloni, ma di fatto è diventato veramente un parametro di comportamento, di stile, di frasari, di modi di vivere, di desideri, magari anche quelli incompiuti. La sua autrice, Candace Bushnell, è tornata in libreria, nelle librerie americane, con un nuovo prodotto e tra l'altro rilasciando anche una serie di interviste molto divertenti per come accetta, promuove, in un certo senso si rassegna alla identificazione una volta per tutte con la protagonista, no? Con quella Carrie Bradshaw che è lei poi a tutti gli effetti, che così bene è stata poi interpretata da Sarah Jessica Parker. Il libro in questione non a caso si chiama The Carrie Diaries. Li abbiamo voluti mettere dopo quelli di Thoreau perché ci sembrava un sacrilegio sufficiente per così una trasmissione che va a spasso per i consumi culturali come la nostra. Questi sono i diari di Carrie Bradshaw, naturalmente apocrifi, falsi, inventati, però molto divertenti e forse non così inventati, probabilmente assai aderenti alle vere esperienze giovanili dell'autrice di Candace Bushnell, anche perché i Carrie Diaries, i diari di Carrie, altro non sono che la storia di come tutto è cominciato, cioè tutto quello che è successo prima di Sex and the City. E quindi troviamo in realtà una ragazza che studia alla università, ha già un suo bello stilaccio, insomma una sua personalità assai forte, ma ha tanti sogni, prima di tutto lasciare Connecticut e andare a vivere a New York e magari diventare una scrittrice, garantito che ci riuscirà, no? Lo abbiamo visto tutti. It started off originally as a short story that I wrote, and people to whom I showed it seemed to like it, but they said it was terribly elliptical. and so they everybody... Oh, la voce in questione appartiene a un personaggio che ci è piaciuto assai e che abbiamo seguito e ora abbiamo anche letto con grande interesse. Chiamatelo, come fa il New York Times, anche con una punta di pentimento, perché prima mica se ne erano accorti, chiamatelo Cenerentolo, no? Mr. Cinderella lo chiama nel articolo che viene dedicato, articolo di riparazione che viene dedicato a Paul Harding, che è il signore che avete sentito parlare poco fa, al centro in questo momento di interviste di ogni genere, incontri, gli danno premi, gli hanno dato un gran bel contratto, sicuramente milionario, gli hanno dato addirittura un ruolo da membro onorario alla Fondazione Guggenheim, insomma è diventato improvvisamente uno famoso, uno che conta nel salotto culturale americano, perché da signor nessuno, anzi da scrittore molto rifiutato, molto i cui manoscritti venivano rispediti al mittente dicendo scusate ma non ci interessa, adesso ha vinto il premio Pulitzer. Ci sono parecchi articoli che raccontano la sua storia, sono molto divertenti, molto interessanti, è divertente anche il personaggio. A 42 anni ha trascorsi da batterista metallaro in una band poi di scarsa fortuna, poi ha fatto un corso di scrittura creativa, il che dimostra a tutti coloro che ci pensano che allora forse servono davvero a qualcosa questi corsi, si impara davvero a scrivere, si vince addirittura un Pulitzer passando di qua. Poi lui a sua volta è diventato un docente e poi ha creato il suo libro nel cassetto, no? Ci ha lavorato per anni, ovunque, dovunque, dice che era diventato uno scrittore istantaneo, apriva il computer e buttava giù pezzi di libri, poi ha stampato tutto, poi ha tagliato tutto, poi ha montato tutto, insomma c'è già tutta la apologia del capolavoro, perché alla fine dopo 30 rifiuti è arrivato un ok da una piccola casa editrice, si è mosso il sotterraneo motore delle librerie indipendenti americane che non molto ma qualcosa possono, perché hanno comunque interlocutori importanti. Il libro poco alla volta è riuscito a salire, ha venduto 7.000 copie, che sono una cifra rispettabile anche negli Stati Uniti, poi se ne sono accorti alcuni di quelli che contano davvero e adesso per Paul Harding e il suo librino, che è un librino sottile di 180-190 pagine, racconta due storie parallele, si chiama Tinkers, che vuol dire stagnaro, diciamo così, quelli che vanno in giro a aggiustare oggetti metallici, racconta la storia del padre intrecciandola con la storia di un vecchio orologiaio che conosceva. È comunque un libro contemplativo, è un libro sull'America, è un libro sull'America come quella di Thoreau, su un'America che tende a sparire, un'America fatta appunto di contemplazione, di comunione con la natura. È un libro molto bello, assolutamente in controtendenza, no? Con gli inseguimenti d'auto e le sparatorie. Questo premio restituisce anche al salotto letterario americano certamente un po' di dignità che non guasta mai. Washed away my pores and had my last conversation with you the way I usually can. There were whirring little spinners that tickled the rough of my hands and a weekend exchange, but I want you to know just in case you wanted me to take your anni 10. Suoni. So, scusate, già stavate magari, no, gustandovi questo sempreverde che si chiama La Vienna Rose di Grace Jones, ma io proprio di Grace Jones voglio parlarvi, però in questo spazio in cui devo segnalarvi cose che poi magari potrete inseguire, scoprire nei prossimi giorni, nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Per esempio Grace Jones, di cui si fa un gran parlare e di cui vi voglio segnalare una splendida intervista pubblicata dal quotidiano inglese Guardian. in occasione di una serie di eventi dedicati proprio a questa signora della dance music e di tante altre cose, perché Grace Jones insomma è una vera regina trasversale, che sarà peraltro in concerto lunedì 26 alla Royal Albert Hall di Londra, un super posto per un super personaggio. Magari vi trovate da quelle parti, alla quale è dedicata una mostra che si chiama Stillness at the Speed of Light. Sono fotografie olografiche, ologrammi in 3D firmati da Chris Levine. Quindi, come dire, vedete Grace Jones, gli girate intorno, la potete quasi toccare, sempre a Londra, alla Vinyl Factory, che è una galleria di Londra. E poi ci sono tutta una serie di servizi fotografici, perché lei ha fatto un contratto con il famoso stilista giapponese Issei Miyake, insomma è dappertutto. Pensate che ha 61 anni la nostra signora della Vie en Rose, Grace Jones, e il pezzo in questione, scritto dal bravo Simon Atteston, è semplicemente un peana. Lui all'inizio si incavola perché lei arriva con 3 o 4 ore di ritardo all'appuntamento, poi lei arriva, le spiega che lei è una vampira, scusate, ma non esco prima di una certa ora, però la stanza si illumina di questa presenza che fin dai tempi di Andy Warhol, lei frequentava già la Factory di Andy Warhol, pensate quante ne ha passate, continua a essere così catartica, straordinaria, e mentre sorseggia vino con una cannuccia per non rovinarsi il trucco in attesa di un set fotografico, offre le proprie divertenti memorie al giornalista in questione, Grace Jones. No matter what we face, we must face the moment of truth, baby. They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Erano gli anni 90, il disco, anzi i dischi, perché erano due volumi, si chiamava Jazz Mataz e piacque a un sacco di gente, anche in Italia. La band responsabile del progetto si chiamava Gangstar e il protagonista della band in questione si chiamava Guru, e uso l'imperfetto perché Guru è a soli 43 anni scomparso in questi giorni, ignorato dai nostri media la notizia. È morto per un brutto male con un lungo periodo di malattia. Resta certamente un padre spirituale della dance music, ma soprattutto di quel grande mescolo, no, che all'indomani dell'esplosione dell'hip hop cominciò a ridisegnare la musica nera. Il suo vero nome era Keith Elam, fece questo duo, essenzialmente un duo, era Gangstar insieme a DJ Premier, poi i due avrebbero litigato, già ora che se n'è appena andato ci sono liti per l'aggiudicazione dei suoi materiali originali, cioè DJ Premier che le vuole, altri rapper che dicono no, ha parlato con me, insomma ascoltiamolo ancora un attimo perché è stato un personaggio importante, i suoi dischi restano perfettamente attuali. Guru. Dark clouds over my head, my heart's racing, suicide now. I'm not a foolish guy, don't even feel like drinking or even getting high, cause all that's gonna do really is accelerate the anxieties that I wish I could alleviate. But wait, I've been through a whole lot of other shit before, so I ought to be able to withstand some more. E sulla voce di Guru invece vi annuncio una rinascita avvenuta, in grazia di Dio. Per fortuna c'è qualcuno che torna, che rispunta, nella fattispecie molta gente sarà contenta perché di fans ce n'erano un sacco, migliaia anche in Italia, sono i Blur. Damon Albarn è iperattivo, no? Appena messo in circolazione il nuovo album dei Gorillaz, ma ormai è storia che c'ha almeno un anno di vita la riformazione dei Blur, si sono, come dire, hanno trovato il modo di superare quella che loro stessi hanno definito la guerra civile all'interno della band, visto i caratterini a dir poco intrattabili dei signori in questione. È in arrivo un album, ma intanto i Blur hanno regalato un singolo a tutti, è scaricabile sul loro sito e in mille altri posti. È un pezzo tipico stile Damon Albarn, è un pezzo che sembra non finito, una specie di schizzo, come dire, stiamo lavoro in corso, stiamo lavorando, preparatevi al nostro ritorno. Questo è il tipico snobismo di Albarn. Il testo è molto divertente, il pezzo si chiama Fool's Day, che sarebbe il giorno del pesce d'aprile, no? Il primo aprile. Si parla del diventare grandi, fondamentalmente, la solita voce malinconica di Damon, dice: questo è un altro giorno su questa piccola isola, che altro non sarebbe che la Gran Bretagna, a mangiare porridge e a portare i ragazzini a scuola. Nulla da dire, siamo ben contenti che i Blur siano tornati in circolazione. Questo è il disco dedicato al primo aprile. So meditate on what we've all become. On a cold day in springtime, civil war is what we all were born into. Raise your left and right, say don't capitulate to the forces of the mind. Insomma, basta poco, no, per riabituarsi alle atmosfere, adesso dico la banalità, così Brit, no, così britanniche dei Blur, ma di fatto è così. Sembra improvvisamente di stare a Londra, scendere le scalette della metropolitana e inevitabilmente piove e nell'aria naturalmente risuonano i Blur. Questo è il singolo che annuncia quindi il loro rientro, quindi Blur attivi anche negli anni 10, anni 10 che dovrebbero appartenere anche alla band che state ascoltando invece lungo questo programma. Avete già sentiti due brani, ora ne sentirete un terzo, che è una nostra piccola scoperta che ci piace un sacco per quello che rappresenta e anche per la storia che ha alle spalle, perché insomma, se il destino ha voluto che voi vi chiamiate all'anagrafe Avigdor Zaner Isenberg e volete fare una band rock, che cosa dovete inevitabilmente fare? Cambiare nome, perché con quel nome non andate da nessuna parte, ed è quello che ha fatto questo ragazzino di 18 anni che si chiama Avi Buffalo. Adesso questo è il suo nome d'arte, il nome anche della sua band. Siamo a Long Beach, ovvero nel cuore dell'Orange County, no? Di quella terra della California meridionale, così particolare per come sintetizza proprio lo stile suburbano coniugato con l'approccio californiano edonistico particolare di una specie di lunga decadenza americana, a cui poi telefilm, libri, Bret Ellis, le storie dell'omonimo serial televisivo e tanti tanti film ci hanno abituato. Il gruppo quindi si chiama Avi Buffalo, sono tre ragazzi e una ragazza, il più vecchio fa adesso 21 anni, quindi vera musica teenageriale, dalla California meridionale come i Beach Boys, chissà perché Brian Wilson ci viene in mente, forse anche perché il nostro Avigdor, anche lui è grassottello, è piccoletto, non è un surfista nato, proprio come non lo era Brian Wilson. Omonimo l'album, il loro suono ci piace un sacco, eccoli qua, Avi Buffalo. You could be too young. Figure. Insomma, una cosa di cui i giornali italiani si sono accorti che sta succedendo a cavallo fra Regno Unito e Stati Uniti, abituali coproduttori dell'oggetto culturale in questione, è che James Bond sta molto molto molto male, anzi si può dire che forse James Bond sta per morire, chi l'avrebbe mai detto? Naturalmente il James Bond che ci è rimasto a noi peregrini, ovvero quello cinematografico, che ogni tanto torna ma poi improvvisamente forse non torna più, perché come avrete ampiamente letto e visto in televisione, il numero 23, quello che come titolo di lavoro aveva James Bond 23, perché ancora non gliel'hanno trovato uno decente, è stato messo in stand-by dalla produzione, perché costa un sacco di soldi, e la Metro-Goldwyn-Mayer, proprietaria della produzione in questo momento, sta passando dei gran brutti guai finanziari, e quindi di spendere quei soldi non se ne parla proprio. Forse ci si tornerà, ma per adesso tutto congelato. E allora giornali, soprattutto britannici ma anche americani, impazzano sulla questione. C'è molto da leggere, c'è molto da divertirsi, soprattutto si fa dello spirito in questi casi, no? Si dice cosa fare per resuscitare James Bond. C'è un bel articolo sul Guardian, un divertente articolo sul Guardian a questo proposito, che propone di cambiare tutto, no? Di cambiare protagonista, e propongono, dice, basta con questi protagonisti bianchi così di poche parole. Loro propongono un bel rapper, anche bello coatto, come si dice a Roma, nella fattispecie Dizzy Rascal, che è uno che fa nei programmi per i ragazzini. Poi propongono di trovare delle nuove idee per il nemico, no? L'antagonista di Bond, dice, qui siamo nel XXI secolo, è ora che James Bond se ne accorga, e propongono una parrucca volante come avversario, una parrucca volante. Vabbè. Poi nuovi gadget, dice, Bond deve andare in controtendenza, basta con queste armi ipertecnologiche che fanno tanto supermercato, perché dal prossimo film, ammesso che si faccia in poi, Bond non ammazza gli avversari a calci nel sedere. Anche questa è un'idea, secondo me, piuttosto originale. Poi dicono sul titolo, bisogna lavorare molto sul titolo, bisogna trovare qualcosa che incuriosisca le persone e il pubblico delle nuove generazioni. Sapete, doveva esserci Sam Mendes, tra l'altro, no? American Beauty, il regista di American Beauty, a dirigere questo nuovo Bond, ma poi anche lui si è rapidamente sfilato dalla cosa. Un titolo proposto è Grazie addio, è il giorno, evocando, mettendo insieme 10 titoli Bond tutti insieme, grazie a Dio è il giorno di morire, quindi di arrivederci e io dico buona morte, che è un titolo, come dire, molto ricco, anche un po' confuso. Dicono comunque sempre meglio di Quantum of Solace, no? L'ultimo titolo di James Bond che nessuno capiva che cosa fosse. Oppure dice, andiamo su titoli intellettuali altrettanto incomprensibili, e propongono Gondola of Wilderness, che per gli americani è molto esotico, una gondola nel mondo selvaggio. Del resto James Bond è in questo momento in pensione, vedremo se tornerà in scena quanto prima. They are the world's greatest mercenaries. The only life they've ever known is war. The only loyalty they've ever had. Chissà come fanno a fare queste voci così profonde, questi speaker dei film di azione, perché in pensione James Bond, per fortuna ci sono i colleghi che continuano ad agire. Ed apriamo qui una breve, rapidissima rassegna dei nuovi titoli in uscita nei cinema americani. Sapete, in America l'estate, l'alta stagione film, c'è una pioggia di nuovi titoli di alto intrattenimento che vi vogliamo cominciare così a mettere come pulci nell'orecchio. Il primo in questione, lo avete appena sentito introdotto a questo trailer, si chiama The Expendables, gli spendibili, ed è un film di azione fatto da veterani, a dir poco, da vecchie carogne del cinema americano che si sono consociati. Secondo me questo sarà un successone, perché vedere Sylvester Stallone, Bruce Willis e Jet Li tutti insieme fare a cazzotti per 2 ore e probabilmente uscirne anche vivi sarà certamente uno spettacolo. Quindi The Expendables è in uscita in agosto in America, probabilmente poco dopo anche in Italia. Già a luglio invece arriva The Last Airbender, che è il nuovo film di Night Shyamalan. So che anche in Italia questo regista di origini indiane ha tanti cultori, e mi ci metto pure io. Anche The Village a me è piaciuto. Qui siamo alle prese con un film fantastico, un'epica fantastica. C'è un eroe dotato di superpoteri che deve mettere insieme le nazioni, l'acqua, dell'aria e della terra, e combattere il fuoco. Un delirio, sarà sicuramente divertente e visionario, come sempre Shyamalan. What's the most resilient parasite? An idea. questo è il nuovo Christopher Nolan, altro regista che gode di un culto assai particolare anche in Italia. L'ultimo film che ha fatto è stato Dark Knight ed è piaciuto anche molto al nostro pubblico. Qui c'è di mezzo niente meno che Leonardo DiCaprio e un'idea molto originale, molto stravagante, i ladri di sogni, i ladri di idee, in pratica nel delirio telematico che anima tanto cinema, delle persone che entrano nei cervelli di chi sa inventare e si fregano l'idea, naturalmente pura visionarietà a questo punto. Uscirà anche Sex and the City nei prossimi giorni, assai vicino all'uscita di Sex and the City 2, si parla delle ragazze, del favoloso quartetto, questa volta impegnato in una vacanza in Oriente, speriamo vada meglio del primo dal punto di vista almeno delle critiche. È in uscita Prince of Persia, che è un film tratto da un videogioco, sapete bene che è un videogioco di grandissimo successo, adesso è diventato un film, fatto il cammino all'incontrario, c'è Jack Gyllenhaal nel ruolo principale e poi c'è un altro ritorno del quale nonostante tutto, denunciando la nostra età, non possiamo non rallegrarci. You will live a long time, have many friends, many experiences. You will lose all your money. Don't worry, you will get it all back again. And you will come back to Bali, and then I will teach you everything I know. Insomma, Julia Roberts è una donna di mezza età, ma che donna di mezza età, ma deve consultare anche lei un santone, quello che avete appena ascoltato, per capire come amministrare al meglio, no? Appunto il suo passaggio d'età. Si chiama Eat, Pray and Love, il film incentrato proprio su una rinascita spirituale, su una riscoperta, sulla consapevolezza di come la vita cambi, ma trova sempre nuovi significati, interpretato appunto da Julia Roberts. C'è un A-Team in arrivo, il gruppo di agenti di gloria televisiva. C'è naturalmente la saga di Twilight che a fine giugno ha il suo nuovo episodio che si chiamerà Eclipse. C'è Michael Cera, l'eroe di Juno, che diventa a sua volta uno strano supereroe in Scott Pilgrim, e poi ci sono cinque ragazzotti che fanno molto ridere. In 1978 they were the best of friends. Che succede se il quintetto di ragazzini che vinsero a scuola un campionatino di pallacanestro si riunisce 30 anni dopo? Ve lo racconta, la partenza è già buonissima, quindi è chiaro che è molto divertente, lo racconta Adam Sandler con il contributo di Chris Rock e di altri tre comici in questo Grown Ups, Cresciuti, il film, uno dei film destinati a fare più cassetta a partire da fine giugno nei cinema americani. Poi vi dico, c'è anche un Karate Kid in uscita, anche l'Italia condivide l'uscita mondiale di Iron Man 2, c'è Cameron Diaz insieme a Tom Cruise in un film che si chiama Night and Day, questo nei cinema americani, ma ormai credo che il ritmo sia più o meno lo stesso, quindi presto anche nei cinema italiani. Raconterai la mort. Insomma, abbiamo seguito parecchie tracce, quelle dei diari di Thoreau, quelle dei diari di Candace Bushnell, quelle dello scrittore che ha trovato una fortuna insperata che si chiama Paul Harding, e poi Grace Jones, Gangstar, i Blur, Heavy Buffalo, ricordatevi questo nome, e i film in uscita. Trovate le tracce di anni 10 per risalire agli oggetti culturali sulla nostra pagina Facebook che si chiama Anni 10 Radio 24.